Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Prima dell'estate ci siamo occupati più volte di una strana vicenda, quella dell'Energy Catalyzer o ICAT, un reattore a nichel idrogeno inventato da Andrea Rossi a partire dagli studi di Sergio Focardi, un fisico italiano. Questo reattore produrrebbe, secondo l'inventore, calore sulla base di reazioni nucleari a bassa energia. Parliamo in pratica della cosiddetta fusione fredda, anche se questo termine è tecnicamente sbagliato. Dell'oggetto in sé si sa pochissimo, se non quello che dice il suo inventore, Andrea Rossi, appunto, filosofo e ingegnere, insomma, con un passato che getta anche qualche ombra sulla sua credibilità. Rossi, però, ha fatto in più circostanze delle dimostrazioni davanti a scienziati o davanti a un pubblico ristretto. L'ultima di queste dimostrazioni è avvenuta pochi giorni fa a Bologna, presso EFA, quindi l'azienda della famiglia Rossi. C'erano alcuni giornalisti, tra cui il sottoscritto, c'erano ricercatori dell'Università di Bologna e di Uppsala, presenti però tutti a titolo personale, c'erano esponenti di aziende americane e svedesi, quali però non lo hanno voluto dire. E poi naturalmente c'erano Rossi e Focardi. La dimostrazione è consistita in una prova calorimetrica, in cui si è, cioè, valutato il calore prodotto dall'oggetto, l'ICAT appunto, mettendolo a confronto con l'energia elettrica assorbita per funzionare. Il rapporto dettagliato delle misure lo ha pubblicato il giornalista Mats Lewan sul sito di Nitechnik e secondo questo rapporto, prima di essere spento, l'oggetto ha prodotto acqua calda per circa 8 ore. Per metà di questo tempo, 3 ore e mezzo circa, ha funzionato con la spina staccata, cioè praticamente senza alcun tipo di fonte di energia esterna, producendo 10,5 kWh. E questo considerando che c'erano anche parecchie dispersioni, a mio avviso, cioè diciamo che questo dato è fortemente sottostimato, questo lo dice anche Mats Lewan, che si è preso, così dice lui, un 50% di margine di errore, cioè ha dimezzato sostanzialmente i numeri che gli venivano fuori dai calcoli. Dichiarazioni dei presenti entusiaste, Ronald Patterson, chimico dell'Università di Uppsala, addirittura ha dichiarato, insomma, senza mezze misure, che per lui funziona, anche se bisogna fare misure migliori. Allora, commentiamo questa, scusate per la lunga introduzione, commentiamo questa vicenda con Stefano Bagnasco, che è uno scettico di mestiere, intanto è un fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed è soprattutto un fisico del CICAP, che è il comitato che si occupa di fare la lotta alle frodi scientifiche. Buonasera Bagnasco. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Bagnasco, se noi dessimo per buoni i numeri che sono usciti dal rapporto di Lewan, quale sarebbe la conclusione? Ma ripetiamo la premessa: se diamo per buoni i numeri calcolati, i numeri misurati in questo test, mi sembra evidente che una qualche produzione di energia sembri esserci. Non probabilmente quella veramente cospicua di cui si parlava prima dell'estate, durante i primi test si parlava di un fattore 10 rispetto all'energia emessa, qui siamo più vicini a un fattore, potremmo dire 2 per esempio. Quindi un po' più considerando anche la fase di preriscaldamento, lei dice. Sì, certo. D'accordo. Quindi sembrerebbe funzionare. Il problema è che questa misura, come tutte le altre che sono state fatte di questo oggetto, hanno una specie di peccato originale, cioè sono misure che non sono fatte da scienziati indipendenti, con tecniche e con strumenti loro, e quindi in linea di principio uno non sa bene quanto può fidarsi. Caveat emptor, no? Si dice, se il venditore del cammello che mi descrive quanto è bello il cammello, potrei anche non fidarmi. Certo, bisogna che mi faccia vedere il cammello. Bisogna che mi faccia vedere. Sono prove semplici, relativamente semplici da fare in realtà, e devo dire, questa prova qui rispetto a quelle precedenti va un po' meglio. Sono stati fatti diversi miglioramenti, per esempio le volte scorse c'era il problema di cui si è discusso molto, del fatto che questo produceva vapore, non si sa bene quanto questo vapore fosse secco, fosse puro, completamente vaporizzata, non contenesse una parte di acqua ancora liquida, e molti altri problemi ci sono stati in queste misure. Quel problema lì, per esempio, in questo esperimento in cui lui ha fatto ricircolare il vapore in uno scambiatore di calore misurando poi l'acqua sul circuito secondario, quel problema lì non esiste più. Se ne sono introdotti altri, io non vorrei neanche intanto entrare nei dettagli tecnici delle misure, perché non c'ero, non ho partecipato, la ragione principale è che non mi hanno invitato. Un'altra ragione è che in realtà partecipare come testimone a queste cose è abbastanza poco utile, nel senso che io sono sicuro che se anche fossi stato lì non mi sarebbe venuto in mente tutto subito al posizionamento della termocoppia piuttosto che l'altra cosa. Una cosa è guardare una persona che fa un esperimento, altra cosa è progettare e pensare un esperimento, e quando quando una misura è dubbia, cosa faccio? Vado, riprovo, verifico che le cose vadano nel modo corretto. In questo caso uno poteva solo guardare e a posteriori ragionare. Insomma, fare un buon esperimento è un work in progress, lei dice. Bisogna mettersi lì e ripeterlo e ripeterlo, potendo scegliere i dettagli della sperimentazione. Potendo scegliere i dettagli e cercando di capire quali sono i punti deboli e cercando di risolverli. Adesso questo certo. Un po' alla volta lo sta facendo, ma come dicevo, c'è sempre il peccato originale che il test dovrebbe essere fatto da, in maniera indipendente, da ricercatori che non siano Rossi o i suoi collaboratori. Questo è stato promesso più volte, l'Università di Bologna ha addirittura un contratto pending sì. Con Rossi per fare questa cosa. Io sono sicuro che quando queste misure ci saranno sapremo la verità finalmente, può darsi che questo affare funzioni, ma in questo momento io non mi sentirei di dire né di sì né di no. D'accordo, comunque insomma diciamo che merita attenzione, questo test lo merita se non altro per come dire il gran clamore che ha sollevato tutta questa vicenda. Grazie Stefano Bagnasco. Grazie a tutti. Lasciatemi concludere con una considerazione. A tutti coloro che hanno assistito all'esperimento, la produzione di energia è apparsa evidente, anche perché ciò che il report di Lewan non riporta è che molte delle misure fatte da Rossi sono state controllate indipendentemente, anche se in modo un po' spannometrico, ma da persone indipendenti e con strumenti indipendenti. E più o meno i conti tornavano. Inoltre una buona parte dell'energia prodotta è andata certamente persa e quindi semmai la produzione di energia è stata ampiamente sottostimata. Ciò detto, la portata delle dichiarazioni di Rossi è tale che la questione non sarà mai chiusa fino a che l'ICAT non sarà testato da un pool di ricercatori indipendenti e in fondo è giusto così. L'occasione buona potrebbe essere proprio l'attivazione dell'impianto da 1 megawatt che è prevista per il 28 ottobre e speriamo quindi che Rossi ne approfitti e accetti di essere verificato da terzi. Ci fermiamo qui ma domani torniamo con Bagnasco per discutere un po' in generale invece l'approccio della comunità scientifica rispetto a questo tema, quello della fusione fredda, approccio che appare, il mio parere personale, un po' troppo conservativo. A domani.